Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: in primo luogo la borsa, perché insomma ieri c'è stato un recupero, oggi il recupero è ancora più forte, più 4,64% in questo momento Milano, più 5,40 Parigi, più 5,40 Francoforte, l'America dà una mano, più 2,5%, Londra più 3,60. Che cosa è successo? Sembra più vicino all'accordo con la Grecia, e quindi il rifinanziamento da 8 miliardi che deve arrivare entro inizio ottobre alla Grecia per permettere alla Grecia di la manutenzione ordinaria, si chiamerebbe, quindi pagare gli stipendi e appunto rinnovare le scadenze sul debito. Questa sera incontro tra il premier greco Papandreou e Angela Merkel, quindi la cancelliera tedesca, alle 20, ma da varie indicazioni, e oggi la Merkel ha già parlato di Grecia, è arrivata una rassicurazione sul fatto che la Germania sostanzialmente non abbandonerà la Grecia. Poi ha parlato anche il ministro alle finanze, però ha detto la Merkel la Grecia è sulla buona strada con il piano di privatizzazioni, e insomma si allentano le tensioni che hanno come epicentro la Grecia, ma sappiamo riguardano tutto il cosiddetto Club Med, quindi Italia e Spagna in primo luogo, e lo si vede non solo dagli andamenti di borsa e dal recupero dei bancari, ma anche dall'andamento degli spread, ossia tra quanto costa l'Italia trovare finanziatori per il suo debito, quanto deve offrire l'Italia e quanto deve offrire invece la Germania. La differenza è scesa a 365 punti, è un livello ancora alto, un po' sopra al livello a cui era sceso dopo l'approvazione della finanziaria, però insomma sempre meglio dei 400 punti della settimana scorsa. Anche i CDS, quindi i premi che si pagano per le polizze per assicurarsi sul rischio Italia, sono scesi e avevano toccato un record la settimana scorsa, 520 punti, 530, sono scesi a 475 punti. Il Tesoro oggi ha collocato anche 8 miliardi di obbligazioni di bot a 6 mesi. Il tasso è alto, però insomma questo era da attendersi, è al 3,07%, ai massimi dal settembre 2008. Questo vuol dire che noi paghiamo tanto, paghiamo una cifra, che un rendimento che non pagavamo da Lehman Brothers sostanzialmente, per trovare finanziatori per il nostro debito, e sappiamo che un punto percentuale di PIL vale circa 15 miliardi di euro. Sale anche, scusatemi, il rendimento dei CTZ al 4,51%, il massimo da 3 anni. Anche questo vuol dire che a noi costa di più trovare finanziatori per il debito. La buona notizia, dicevo, arriva dalle borse. Al di là della Popolare di Milano, oggi il Consiglio di Amministrazione, le richieste della Banca d'Italia di avere un manager, forse l'aumento di capitale, l'ingresso di Matteo Arpe e di Bonomi, forse anche questo. Comunque il titolo è in volata, più 11% a 1,58 euro, ma molto bene Saipem più 8,13, Enel più 6,90, UbiBanca più 6,91%, Unicredit più 6,86, Azimut più 6,24, ST Microelectronics più 5,80, Atlantia più 5,80, Impregilo più 5,40 come Mediolanum, Mediaset più 5,20 come Intesa San Paolo. Chiudiamo con chi guadagna più del 4%. Eni più 4,80 come Buzzi Unicem, Tods più 4,5, Mediobanca più 4,30, Fondiaria Sai più 4,20 e Prismian più 3,80. Di negativa c'è solo la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, meno 1,20%. E allora vedo che già lo chiedete, Gallo sia. Allora, sicuramente vedo che molti ci chiedono, ma insomma cos'è questa borsa, come mai la settimana scorsa si chiusero una delle peggiori settimane del 2008 e adesso il recupero, perché obiettivamente noi spesso critichiamo andamenti di borsa puramente speculativi, privi di razionalità. Oggi e ieri, dopo il vertice dei G20, questo fondo, questo aumento del fondo di salvataggio per banche e stati europei, non si capisce ancora l'ammontare, ma insomma sarà sicuramente superiore ai 440 miliardi di cui dispone adesso. E soprattutto lo sciogliere le resistenze della Germania, che ha detto va bene, la Grecia la dobbiamo salvare, ci ha messo un po', ma insomma questo è successo. Questo ha allentato tutte le tensioni sui mercati. Faccio notare che in Francia le banche, quelle più bastonate la settimana scorsa, quindi Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, crescono Crédit Agricole fino al 12%, quindi va benissimo, infatti anche l'indice francese, il 5,35% di rialzo. Tutto finito? No, e lo si capisce dagli spread che citavamo prima, sono ancora più alti della Spagna, 365 punti sono alti e non ci permettono di dire che il peggio è passato, però prendiamo e portiamo a casa questo rialzo di borsa che con questi tempi è... Il petrolio apre in leggero rialzo, $82 al barile, anche l'oro leggerissimamente in rialzo, ma è sempre a $1,600, è sceso moltissimo in questi giorni, ne abbiamo parlato ampiamente. Di cosa ci occuperemo oggi? Ci occuperemo delle attese e comunque degli sviluppi sul fronte Europa-Grecia, ma anche Europa-Stati Uniti, con questo annuncio di una Tobin Tax, una tassa sulle transazioni, ma ci occuperemo anche del rapporto Svimez che fotografa un'Italia in stagnazione, addirittura nel 2011 dice che il PIL non andrà oltre, al sud chiaramente, oltre lo 0,1%, e nel giorno in cui si è scoperto, diciamo così, che le retribuzioni, i salari ad agosto continuano a restare praticamente fermi, ossia crescono di niente rispetto a luglio, ma soprattutto sono più bassi del valore dell'inflazione rispetto a un anno prima, cioè più 1,7% agosto su agosto 2010, quando l'inflazione ad agosto è del 2,8%, e quindi sostanzialmente in termini reali cala il potere d'acquisto. Il rapporto Svimez che addirittura individua il rischio di uno tsunami demografico nel mezzogiorno, che potrebbe perdere nei prossimi 20 anni quasi un giovane su 4, e poi fotografa anche un centro nord dove un giovane su 5 sarà straniero. Parliamo tra un attimo. Nel frattempo, Termini Imerese, avete ascoltato anche dai nostri GR la manifestazione in corso a Roma, le due diverse posizioni del sindaco Alemanno da una parte e del presidente della regione Polverini. È iniziato però intorno alle 15.30 l'incontro tra il governo, l'advisor Invitalia, i sindacati e la Regione Sicilia proprio sul futuro dello stabilimento Fiat di Termini Imerese. La Fiat lo chiuderà a fine anno. Presenti il ministro Romani, il governatore della Sicilia Raffaele Lombardo, l'amministratore legato di Invitalia Domenico Arcuri e tutte le rappresentanze sindacali. Alcune delle testimonianze dei partecipanti al corteo raccolte dal nostro Andrea Viali. Chiediamo solo un miracolo del governo e delle parti interessate. Fiducia in Fiat non ce n'è. Tutti gli stabilimenti. Fino a oggi non c'è nessuna prospettiva, nessuna. Ma se non la prende nessuno, la Fiat non ci può abbandonare, almeno da come dice lui. Che pensiamo che è meglio che non la prenda nessuno, così bene o male siamo ancora sotto le ali della casa madre e cerchiamo di recuperare quello che si è perduto in tutti questi anni, perché abbiamo dal 2002 che abbiamo avuto questi problemi, queste cose, e nessun politico si è mai interessato a questa benedetta fabbrica. Dicono sempre che devono dare lavoro al sud e invece lo tolgono, chiudono tutte le fabbriche e a noi che ci danno? Dove andiamo a mangiare? Tutto gira attorno allo stabilimento, quindi faccia conto che già stabilimento indotto comprende 2.200 famiglie, in una periferia di Palermo, distante da Palermo, faccia un po' il conto come sarebbe la situazione. E allora introduciamo con questo tema il tema del sud. Non risponderò oggi ai messaggi al 349-238-6666 di carattere politico. Sono a posto con la coscienza, abbiamo spiegato in decine di occasioni la differenza tra quanto sta pagando anche l'Italia per le tensioni complessive dei debiti europei e delle banche europee che si sono riempite di obbligazioni italiane, ma anche spagnole e greche, e questa è la variabile congiunturale internazionale, cioè l'attacco ai debiti europei e l'attacco alle banche europee, con invece quello che pesa la variabile politica. L'abbiamo distinta per settimane, la variabile politica, quindi la debolezza del governo, le analisi di Standard & Poor's e quant'altro. Sono due cose distinte che sommate però compongono anche tutti gli indicatori sul nostro rischio, spread incluso. Allora, dicevamo, il rapporto Svimez oggi, vi arriveremo tra un attimo, perché vedo anche molti messaggi su questo, perché non ha detto solo dello tsunami demografico, ha detto anche e soprattutto, e hai fotografato anche soprattutto un sud che non riesce a crescere, però per chiarire effettivamente il punto su tutte le variabili congiunturali di carattere internazionale c'è Alessandro Merli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento con noi. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera. Juncker poco fa ha detto, ha risposto sostanzialmente a Timothy Geithner, il ministro del tesoro americano, che ha detto insomma l'Europa deve darsi una svegliata, è ora di muoversi, l'ha detto a tutti i leader europei, e Juncker ha detto non accettiamo lezioni che arrivano da oltreoceano, sono assolutamente contrario a eventuali uscite dalla zona euro, non risolvono il problema, però poi ha ammesso che non si può più perdere tempo e ha lodato la Banca Centrale Europea per aver fatto la cosa giusta nell'acquistare in queste settimane, anche la settimana scorsa, miliardi e miliardi di titoli di Stato italiani e spagnoli in modo da tenere basso il rendimento. La cosa che più ha mosso i mercati però oggi, Alessandro, è la posizione della Merkel, che non cessa mai di sorprenderci. Ma intanto c'è da dire una cosa, gli europei hanno questo modo un po' stizzito di reagire a qualsiasi cosa che dicano gli americani, questo atteggiamento da che pulpito viene la predica. Il fatto che gli americani non abbiano del tutto le cose in ordine a casa propria non significa che qualche volta non abbiano ragione quando parlano dell'Europa, e che l'Europa al momento abbia bisogno di molto di più di quello che sta facendo fino adesso. Su questo direi che non ci sono dubbi, l'andamento dei mercati negli ultimi mesi lo dimostra abbastanza bene. Giustamente hai detto l'epicentro della questione si sta spostando verso la Germania, le dichiarazioni di oggi della Merkel e di Schäuble dimostrano che molto si gioca su questo voto di giovedì al Bundestag, dove bisogna approvare l'allargamento sia dei poteri che dei fondi a disposizione del famoso IFSS, cioè il fondo salva stati europei. I tedeschi però non vogliono andare al di là di questo, si è detto usare la leva finanziaria per aumentare la cosiddetta potenza di fuoco di questo fondo, per essere pronti a salvare eventualmente non solo la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda, ma se ce ne fosse bisogno anche ricapitalizzare le banche e minimizzare i problemi della Spagna e dell'Italia. C'è un'equazione politica molto difficile in Germania. L'Europa ha bisogno di più fondi per tutte queste operazioni, dall'altra parte l'opinione pubblica tedesca è nettamente contraria a fare anche un minimo passo in più di quello che sia già stato fatto. Oltretutto la Merkel è alle prese con una maggioranza che è piuttosto irrequieta, i liberaldemocratici hanno detto che non voteranno appunto il pacchetto degli FSF, dell'ampliamento del mandato dei poteri degli FSF giovedì, se si continua a parlare di una chiamiamola così, di una seconda fase che dovrebbe aprirsi poi con l'uso della leva finanziaria. Quindi equazione complicata da risolvere per la signora Merkel, che fra l'altro fra poco deve incontrare il primo ministro alle 20, no? Sì. Papandreou, e quindi anche lì diciamo che sarà un po' in bilico tra le sue responsabilità internazionali e la necessità di non spaventare ulteriormente alleati e deputati, perché poi non le votino contro giovedì. Allora, a parte che devo citare un messaggio di un ascoltatore al 349-238-6666, perché lo trovo molto divertente, dice: dal gufo al gallo, occupandosi dei crolli di borsa la settimana scorsa e dei recuperi di oggi, dal gufo al gallo più veloci dei neutrini. al CERN sarebbero sgomenti. Sì, la velocità con cui la borsa cambia direzione in questo periodo ha dell'eccezionale. Invece vi voglio leggere che cosa ha detto oggi Papandreou, che appunto, come ricordava Alessandro Merli, alle 20 incontrerà la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ha detto: vabbè, noi stiamo prendendo in prestito risorse per poi ripagare, stiamo investendo sui nostri punti di forza, abbiamo già raggiunto molto. Ma c'è una frase molto importante, a mio avviso. Ha detto Papandreou: il mio problema non è essere rieletto, ma salvare il mio paese. Come slogan, non è male, eh? Non è essere rieletto, ma salvare il mio paese. Poi ha chiesto agli industriali tedeschi di investire in Grecia. C'è anche una Tobin Tax che è spuntata, Alessandro. La Commissione europea ha trovato un'intesa sulla proposta di introdurre la tassazione sulla transazione finanziaria dal 2014, un sistema comune di tassazione sulle transazioni finanziarie basate su un'aliquota minima che i singoli paesi potranno ritoccare su base nazionale. Anche questa è un'operazione unilaterale, cioè l'America non c'è mai stata su questo, il che complica un po' le cose. Ma non ci sta l'America, non ci sta la Gran Bretagna, sono le due piazze finanziarie più importanti del mondo, è possibile che si ottenga il risultato di spostare ulteriormente scambi verso queste zone, per non parlare di Singapore e di tante altre. Questa è la Tobin Tax, il professor Tobin l'ha proposta ormai 40 anni fa, lui stesso non era convinto poi che potesse funzionare con i cambiamenti dei mercati finanziari che ci sono stati successivamente. Comunque è una cosa che piace moltissimo ai politici europei. Parliamoci francamente, l'introduzione di questa Tobin Tax è totalmente irrilevante riguardo alla soluzione o meno della crisi del debito sovrano europeo. Quindi diciamo che è una cosa, insomma, buttata lì, è una caramella buttata lì perché piace a determinate parti dell'opinione pubblica, piace ai politici e dà l'impressione di che stanno facendo qualcosa, ma in realtà la sua irrilevanza a proposito della questione che stiamo affrontando, cioè del fatto che ci sono dei paesi in Europa sull'orlo del default e che questo problema può allargare ad altri paesi ben più importanti come Spagna e Italia, è assolutamente diciamo indipendente, fuori dalla portata di qualsiasi Tobin Tax. D'accordissimo con te sulla Tobin Tax come specchietto un po' per le allodole. E ancora sull'andamento del, sto leggendo molti messaggi, ma sulle dichiarazioni della Germania devo dire sì, c'è stato anche Schäuble oggi che è il ministro delle finanze, che ha detto: attenzione, se dovessimo aumentare la dotazione del fondo di salvataggio, l'FSF, da 440 a 3.000 miliardi, si era ipotizzato nel fine settimana, questo sarebbe un danno per alcuni paesi che godono della tripla A. E poi ha anche detto: occorre comunque che venga consolidato il bilancio, cioè ridotto il deficit dell'Italia e della Spagna. Chiedono giustamente gli ascoltatori: in queste settimane la Banca Centrale Europea come ha fatto a comprare obbligazioni italiane? Beh, ha usato le sue riserve, Alessandro. Sì, la Banca Centrale Europea ovviamente non ha il problema che ha l'IFSF che è creato dai governi, che quindi devono mettere i soldi, per cui la Banca Centrale Europea può in qualsiasi momento decidere di fare questi acquisti, perché è la Banca Centrale Europea che controlla la moneta. Attenzione, non è detto che questo significhi stampare moneta in tutta libertà, perché poi la Banca Centrale Europea in qualche modo con altre operazioni riassorbe questa liquidità, però è evidente che la Banca Centrale Europea non ha le limitazioni che dipendono da un bilancio statale. Precisiamo anche un'altra cosa: i tedeschi stanno giocando molto su questa ambiguità di dire non ci saranno più soldi per l'IFSF, quindi ci fermeremo a 440 miliardi di euro, ma non negano del tutto la possibilità che con qualche strumento finanziario poi ne si possa ampliare diciamo la disponibilità, che quindi questo fondo possa essere usato per esempio per fornire delle garanzie. Diciamo anche un'altra cosa: la cifra dei 3.000 miliardi è una cifra assolutamente inventata Sunday Times domenica scorsa, è ripresa da tutti i giornali ieri. I giornali italiani, forse perché era domenica e l'idea quindi era buona per riempire i giornali, l'hanno particolarmente apprezzata. Ti trovo poco corporativo e sono contento, perché a noi non piacciono le corporazioni, neanche quelle dei giornalisti. Comunque Hai ragione a ricordare che quei 3.000 miliardi sono sembrati troppi fin dall'inizio, però la Germania, avete ragione anche voi a scrivere, ce la sta facendo pagare o penare. Sì, anche perché comunque sono soldi tedeschi. Ci hanno scritto alcuni ascoltatori, perché veniamo ascoltati anche in Grecia tramite il computer, italiani in Grecia, dicendoci che raccontandoci che in Grecia nel frattempo, siccome la manovra una tantum prevede anche una super ICI sulle case più di lusso, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, fino a 1.000 euro in più all'anno per le case per 120 metri quadri nelle zone di prestigio di Atene, questa super ICI arriverà con la bolletta. Ebbene, che ci credete o no, ci sono decine di ateniesi, di greci, che stanno andando all'Enel greca a farsi staccare la bolletta per non ricevere la super ICI. Non so questo poi come verrà gestito. Intanto, grazie a Alessandro Merli, editorialista del Sole 24 Ore. Vedremo poi alle 20 che cosa uscirà dall'incontro Angela Merkel e George Papandreou. Ma avete ragione anche nello scrivere, oggi vi do ragione un po' troppe volte, che obiettivamente le borse fanno venire voglia di dire ma cos'è questa crisi, visto che perdono in una settimana il 12-15% e poi recuperano l'8-9%. E allora, Petrolini? Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Presidente Adriano Giannola del Svimez, buonasera. Buonasera. La sento un po' basso, buonasera, mi sente? Spero, sì. Eccoci, ecco. Ok. Non interpretiamo troppo il vostro rapporto, almeno nel tono di voce. Ma cos'è questa crisi? Lo possiamo chiedere alla Svimez, perché come ogni anno ha presentato il rapporto sull'economia del Mezzogiorno. Più 0,1% il PIL nel 2011 vuol dire un'economia ferma, ma se ho ben capito cresce anche il divario con il Centro-Nord, che per anni, lo ricordo, dal 99 in poi si era ridotto. Si era ridotto, sì, molto limitatamente. Però perché, insomma, si era ridotto. Sì, sì, perché cresceva di meno il nord, diciamo, più che per una dinamica di tutta l'economia. Adesso diciamo che aumenta il divario perché nel calo complessivo del nord, del tasso di crescita del nord e del sud, il sud rimane al palo molto di più dell'economia del nord. Mm-hmm. Ecco, questo è. Quindi in tutti e due i sensi c'era dall'altro un recupero perché era malato il nord, adesso c'è un aumento perché è malato il nord e il sud ne risente mm-hmm. un po' di più. Questo è un po' il vostro quadro. È il quadro, sì, soprattutto se confrontato con Germania, Francia, qualsiasi paese dell'Unione Europea. Oh, guardando il PIL delle regioni meridionali ci accorgiamo di differenze profonde, perché si va dal più 0,5% di Basilicata e Abruzzo, che è una media assolutamente in linea con il resto del paese, la Puglia più 0,3, Sicilia e Sardegna 0, Molise e Campania più 0,1 e poi la Calabria meno 0,1%. Cos'è il rischio dello tsunami demografico? Ma il rischio dello tsunami demografico è, se, detto in due parole, è la proiezione sulla base della struttura proprio demografica attuale di cosa sarà il nord e il sud, tenendo anche conto dei tassi di immigrazione, da qui al 2020, poi al 2050. Diciamo che l'approdo di questa struttura attualmente esistente in base ai tassi di fertilità vigenti e così via, porta il sud a perdere più di 2 milioni di abitanti, a diventare da area giovane, si dice la Campania, la regione più giovane d'Europa, a un'area molto più vecchia rispetto al centro-nord, che in qualche misura diventa l'area dinamica dal punto di vista demografico, anche se è una dinamica molto contenuta. E voi dite infatti praticamente il rapporto 1 su 4, i giovani? Sì, si perde un giovane su 4. 4 e il nord invece ne guadagna 1 su 4 grosso modo, tenendo conto del fatto che poi è l'area di immigrazione sia del sud che del resto del mondo. Quindi la previsione è nei prossimi 20 anni, auguri, sì. Comunque gli under 30 saranno 2 milioni in meno. Quindi meno di 5 milioni nel 2050, e gli over 75, quelli con più di 75 anni, passeranno dall'8% al 18%. Superano come quota della popolazione, che invece si riduce, superano ampiamente la quota del nord, che pure ha una speranza di vita relativamente un po' più lunga rispetto a quella del sud. Quindi è una visione che ci dice che se si continua di questo passo, se il sud oggi si dice assistito, tra 20 anni o 50 anni sarà doppiamente necessario assisterlo, quindi sarebbe opportuno farsi carico di questa prospettiva non proprio allegra. Ecco, voi stimate però in 60 miliardi gli investimenti necessari a rilanciare il Mezzogiorno tra grandi infrastrutture di trasporto e logistica. Ora, io non so dove li possa trovare il governo obiettivamente in questo momento, 60 miliardi, 18 miliardi sono già disponibili, dite voi, però sono quelli del CIPE che poi Tremonti non sblocca, e altri 42 miliardi da dedicare all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ancora con la Salerno-Reggio Calabria, e alla statale Ionica, e poi l'alta velocità o alta capacità nel tratto Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania. E il nuovo asse ferroviario Napoli-Bari e il ponte sullo stretto, sì, vabbè, insomma. E poi la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il ministro per il rapporto con le regioni, Raffaele Fitto, le ha risposto dicendole: guardi che invece che più risorse, sulla quantità delle risorse il dibattito è stantio, occorre attivarsi sulla qualità della spesa. Mi dà la sua risposta dopo il metro e la pubblicità? 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa ha chiuso intanto sui massimi, più 4,90% Milano, più 5,40% Parigi. Meteo. ...17:40, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche alla borsa, più 4,90%, molto bene oggi Milano, ma tutte le altre piazze, più 5,70% Parigi, più 5,30% Francoforte, Londra più 3,70%, quella che cresce meno, ma quella meno coinvolta nei cali delle ultime settimane. Ha ragione chi scrive: attenzione, i dati sul sud. Vorrei concludere infatti l'approfondimento col presidente dello Svimez, che oggi ha presentato un rapporto annuale sul sud. Pesa molto anche il nero, e quindi l'economia sommersa, però è difficile calcolarla. Allora, mi risponde alle due domande assieme, Presidente. Da un lato quello che le ha risposto il ministro Fitto: non basta parlare di quanti soldi, ma la qualità di questi soldi, anche perché... E dall'altro, insomma, il sud ha una componente di nero molto importante. Io nel vostro rapporto, se posso permettermi una critica, ho visto molte richieste al governo, ma nessuna critica anche al Mezzogiorno in quanto tale, che non è che questi soldi li sappia spendere, né quelli europei né quelli italiani. Ma dunque, il commento sulla, diciamo, su necessità Fitto, che dalla quantità alla qualità, e questo è ovvio e in qualche modo giusto, però qui occorre mettere le cose in fila. I miliardi che lei dice che non esistono erano destinati al sud almeno circa 100 miliardi, che poi sono stati gradualmente spesi per altre cose, qualitativamente o quantitativamente non so come siano queste cose, e quei 60 di cui noi parliamo come esigenze per finanziare una lista che non è la nostra lista, è la lista del piano per il sud, quindi è la lista del governo, non la nostra, e secondo noi è realistico anche proprio con lo sblocco ultimo dei fondi, finalmente di una parte di quei fondi, quindi dando un cofinanziamento che rende impossibile altrimenti senza di quello spendere i fondi europei, cosa, altro elemento che viene scarsamente considerato sulla quantità e qualità. Sì. La lista che noi proponiamo è totalmente diversa da quella ufficiale. Noi proponiamo, che in parte in questo governo sta in qualche misura convergendo su questa cosa, di concentrare su poche e priorità, più di carattere industriale e infrastrutturale integrate, e adesso dicendola per etichette, le risorse per le energie rinnovabili, che sono praticamente il sito in Italia che può determinare un controllo del costo per l'energia delle imprese italiane che pagano il 30% più dei concorrenti, e questa cosa si può fare solo usando il mezzogiorno, in particolare è una fissazione della Svimez, energia geotermica da sviluppare, come da l'altro ci ha ricordato il premio Nobel Rubbia non poco sì, più. Ho capito, lei... L'altra cosa è la logistica integrata, allora qui sì che c'è un discorso infrastrutturale che vuol dire essere presenti nel Mediterraneo, avere una politica di inserimento negli scambi mondiali che vedono oggi al centro il Mediterraneo, non è solo la primavera araba che è importante, ma da anni la Cina passa per il Mediterraneo, e su questo si possono attirare molte risorse, a cominciare da quelle cinesi, per costruire una cosa che in Italia forse con molto ritardo si comincia a capire che c'è bisogno di fare. Una cosa però mi risponda nel concludere, perché poi passo alla borsa. Lo Svimez, che è il centro studi più importante sul nostro mezzogiorno, a mio avviso dovrebbe anche muovere qualche critica, non solo denunciare il, diciamo, il divario tra il sud e il nord, il rischio tsunami demografico, o chiedere appunto i soldi, qualche critica al modo in cui il sud ha gestito questi soldi. E guardi, ieri abbiamo attaccato la Lega che difende gli allevatori che non pagano le quote latte, non ho nessun problema a attaccare anche il modo in cui viene amministrata buona parte del nostro mezzogiorno. No, cioè, voglio dire, non sente anche il bisogno di dire tutte noi, queste sono le responsabilità del governo, però anche voi lì, come amministratori locali e come voto agli amministratori, ragazzi, fondi stanno finendo, prego. È una considerazione molto giusta, e se lei conoscesse la Svimez attacca come, diciamo, un certo esempio, noi abbiamo attaccato e l'efficacia e l'efficienza della gestione della cosiddetta nuova programmazione che era stata salutata come la stagione nuova. Siamo stati messi in un angolo perché la criticavamo, e criticavamo le classi dirigenti che la gestivano, ma siamo anche abbastanza onesti per dire che oggi in Italia c'è una percezione del Sud totalmente, diciamo, irrealistica, per cui c'è bisogno di un enorme sforzo di controinformazione su cose molto banali che sono a disposizione di tutti e che non vengono utilizzate, per cui oggi il sud diventa il peso e il nord è l'elemento da salvare. Questa è una ricetta suicida che ci sta portando da 10 anni a questa parte al punto in cui siamo arrivati. In questo senso noi ci sentiamo di dire che al di là di tutte le emergenze, inefficienze e patologie che riconosciamo, critichiamo da sempre, perché è una storia che nasce nel 1946, quella della Svimez, al di là di tutto questo, oggi in mezzogiorno o si capisce che è il driver della possibilità di crescita, che sono parole vuote senza riempirle con qualcosa, oppure il nord se ne andrà, si diventerà una provincetta della Baviera. Questo Ma guardi, chi conduce questo programma non ha mai avuto nessuna simpatia per un'ipotesi irrealizzabile come la secessione. Stiamo solo dicendo è anche più credibile. Comunque io la ringrazio. Grazie a lei. Grazie al presidente dello Svimez anche per aver risposto alle mie domande. Non ho nessun problema a ricordare, oggi se ne sono occupati anche i giornali, dell'intervista ieri al senatore Fruscio della Lega, che ha detto: mi hanno cacciato perché volevo far pagare le multe agli allevatori che non le hanno, quei 650 allevatori che ci costano 3 miliardi e mezzo e un altro miliardo e 4, ed è questo il patto tra il neo ministro Romano che si beccherà il voto a favore della Lega. Lo abbiamo sentito ieri, lo ha detto un senatore leghista, e non ho nessun problema oggi a dire che anche secondo me il rapporto Svimez dovrebbe essere un po' più crudo e critico sulla ingestione del Sud. Se qua continuiamo a pensare che bastino i trasferimenti europei e i fondi per riattivare l'economia del Sud, stiamo guardando un film che è già finito da qualche anno. Adesso però traffico e poi la borsa, perché un più 4,90% non si vedeva da tempo, con la Popolare di Milano più 12,16% grazie anche alle indiscrezioni pubblicate dal Sole 24 Ore. 349-238-6666, traffico e poi borsa. Allora, questo è il commento di borsa di oggi, no scherzo, però basterebbe il gallo a far capire com'è andata, più 4,90% oggi Piazza Affari, più 5,70 Parigi, più 5,30 Francoforte, benissimo i bancari ma anche gli energetici. Abbiamo scherzato? No, non abbiamo scherzato nei giorni scorsi e le tensioni restano tutte, ma come abbiamo spiegato in apertura, la Germania che vuole definitivamente aiutare la Grecia, l'accordo e l'incontro questa sera Angela Merkel, Papandreou, e poi le ipotesi fatte trapelare dalla Banca Centrale Europea ieri di un possibile abbassamento dei tassi di interesse, il Fondo Salva Stati Europea, tutti questi insieme di vicende hanno portato più tranquillità sui mercati. E allora facciamo la borsa come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore. Fermo restando che la frase della giornata, la ricito volentieri, è proprio quella del premier greco Papandreou, ha detto: il mio problema non è essere rieletto ma salvare il mio paese. La trovo un po' retorica ma bellissima di questi tempi. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Popolare di Milano, allora tutte le banche sono andate molto bene, in Francia addirittura le banche più sotto pressione, Crédit Agricole, BNP Paribas e Société Générale hanno guadagnato tra il 13-12%, quindi un botto vero e proprio. Da noi la Popolare di Milano però si muove su altre cose, più 12% a 1,60€, forse non ce la fa Matteo Arpa entrare, invece ce la dovrebbe fare Bonomi con il suo fondo a entrare. E mi riferisco appunto a Andrea Bonomi, capo di Invest Industrial. Una nuova governance, tutte le descrizioni pubblicate anche da Sole 24 Ore oggi. Oggi c'è il Consiglio di Amministrazione della Popolare di Milano e l'eventuale aumento di capitale. Sì, appunto, oggi stiamo aspettando gli esiti di questo CDA che è in corso. Due sono i grandi temi all'ordine del giorno: l'aumento di capitale che dovrebbe essere da 800 milioni, quindi un po' meno rispetto agli 1,2 miliardi che erano previsti fino a qualche settimana fa, e due le modifiche della governance che dovrebbero rendere la struttura e la gestione della Popolare di Milano più efficiente, con un ruolo minore affidato ai sindacati e ai dipendenti, e una struttura che potremmo definire, semplificando, un po' più manageriale. Dovrebbe essere adottato il sistema duale, con un consiglio di sorveglianza che non avrebbe le deleghe strategiche e gestionali, e un consiglio di gestione molto più operativo e senza l'influenza dei sindacati che sono sempre stata un po' la caratteristica della Popolare di Milano. Ma Ponzellini resta? Ponzellini anche qui è una delle altre perché il primo questioni... piano che il presidente Ponzellini ha presentato alla Banca d'Italia gliel'ha bocciato la Tarantola, che non è un modo di dire, ma è Anna Maria Tarantola, direttore generale della Banca d'Italia. Dimmi, scusami Guido. No, niente, che è una delle grandi incognite anche questa. Bisognerà vedere se quest'ultima bozza di mediazione può in qualche modo essere fatta passare, se sorgeranno ulteriori problemi. Insomma, è anche una banca che abitualmente riserva sempre delle sorprese, quindi credo che fino a questa sera, quando arriverà il comunicato con gli esiti del CDA, certo, insomma, tutto un po' in discussione. Allora, gli altri titoli, c'è un ascoltatore che dice: ma sei contento solo se la borsa perde? No, mi sembra di essere abbastanza contento che la borsa abbia guadagnato 14.800 punti, do dei valori. Non so, Unicredito si è riavvicinata agli 80 centesimi per azione, siamo a 77 centesimi, Intesa San Paolo è sopra 1,1 euro per azione, a 1,15 euro per azione, quasi 1,16 euro. Bene i bancari, dicevamo, Intesa e Unicredito, bene Unibanca, più 7%, Mediolanum più 4,90%, Generali più 4,30%, Mediobanca più 4,10%, Banco Popolare più 3,60%, quindi meno dell'indice, Monte dei Paschi più 2,50%, e poi però c'è la Popolare Emilia Romagna che perde lo 0,81%. Sì, però nessuna ragione particolare. La Popolare dell'Emilia Romagna è da poco entrata nel listino principale, è anche stata una banca che ha, diciamo, ha retto meglio alla crisi di quest'estate. Consideriamo che ha perso solo il 15%, ci sono banche sul listino principale che hanno perso oltre il 40% da inizio anno. Per cui in questa fase, che è quella sostanzialmente di un rimbalzo, perché al di là di tutte le notizie, le rassicurazioni che arrivano sulla situazione, molto è anche un rimbalzo quello che sta avvenendo in borsa in questi giorni. Titoli che avevano perso meno continuano a faticare, per cui la Banca Popolare dell'Emilia Romagna oggi ha perso lo 0,8%. Allora, visto che parliamo di banche, molti di voi mi stanno chiedendo che cosa ne penso della vicenda che ha visto indagato a questo punto l'ex era attualmente amministratore delegato di Barclays Italia, Vittorio De Stasio, la procura di Reggio Calabria, se non ricordo male, nell'ambito delle inchieste Energiopoli. Nulla, nel senso che ho letto assieme a voi quello che sono i capi d'accusa. De Stasio veniva dal Bipop Carire, molto stimato al tempo. L'unica volta che l'ho incontrato non ci siamo piaciuti, nel senso che ha annullato un suo intervento perché mi era permesso di criticare le banche, ma questa è l'unica cosa, le banche, la gestione e le responsabilità delle banche nei confronti della crisi. Lui era già il numero uno di Barclays Italia, questa è l'unica esperienza che ho. In bocca al lupo anche a lui. GR, poi con te Guido, vediamo di parlare degli altri titoli, quelli energetici, e vi racconterò però qualche dato sull'evasione fiscale, perché nell'inchiesta in cui è comparsa Marcella Bella si capisce dov'è l'evasione in questo paese, che non è l'artigiano, il proprietario del bar e gli studi di settore, chi dichiara 30.000 euro e ha 5-6 milioni in Lussemburgo, Liechtenstein. Dopo il GR. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo l'approfondimento di borsa. Per chi si fosse appena messo in collegamento, ottima giornata oggi, ancora più solida di quella di ieri, più 4,90% Milano, più 5,70% Parigi, più 5,30% Francoforte. Londra alla fine porta a casa comunque un più 4%. Accordo per la nuova tranche di aiuti sulla Grecia, l'incontro questa sera tra Angela Merkel e il primo ministro greco Papandreou, ma anche ipotesi forse di un taglio dei tassi di interesse lasciata ventilare ieri dalla Banca Centrale Europea, e comunque il fondo salva stati che non arriverà ai 3.000 miliardi ipotizzati, ma giovedì verrà votato dal Bundestag tedesco, ma dovrebbe essere a questo punto implementato. Volevo chiudere con la borsa, Guido Morino, per quello che riguarda non tanto le banche. Abbiamo già detto la Popolare di Milano più 12% oggi, in attesa di sapere come sarà la nuova organizzazione, la nuova governance della banca. Bene, però anche tutti gli energetici: Saipem più 8,28%, Enel più 7,30%, Eni più 5,10% e Terna più 3,30%. Erano un po' Snamrete Gas più 2,30%, era da un po' che non vedevamo gli energetici così in rialzo. Enel Green Power più 3,24%. Ed Enel più 7,30%. Sì, diciamo che in questo caso c'è anche un forte rialzo del prezzo del petrolio, che da questa notte sui mercati asiatici ad oggi ha guadagnato quasi $3 al barile, riportandosi verso quota 84. Ci sono anche una serie di notizie che hanno contribuito, mi riferisco in particolare ad Eni, che ha annunciato la ripresa dell'attività in Libia. Per adesso si tratta ancora di piccole quantità, ma insomma sono anche un po' il segno che tutte le infrastrutture dell'Eni in Libia non hanno subito danni ingenti da parte della guerra. Per quello che riguarda Enel, c'è il fatto che la società ha festeggiato la tranche incassata dal governo spagnolo di circa Endesa, 780 sì. Su Endesa, e anche questa è stata una notizia positiva. Volete sapere di Fiat? Fiat Industrial, quindi camion e trattori, più 2,90%, Fiat Auto più 3,30%, i migliori, i peggiori in assoluto. Archimedica più 43,70%, ma che è successo? Guarda, non lo so, perché fino a poco prima della chiusura era su valori ben diversi, guadagnava attorno al 13%, sì. Deve essere stato un ordine in chiusura. RDB più 20%, poi diciamo delle banche francesi molto forti anche a Parigi, ma quelle quotate anche a Milano: Société Générale più 13,30%, BNP Paribas più 13,23%, Crédit Agricole più 11,70%, Deutsche Bank più 13%, Acea più 11,40%. Il peggiore oggi Metorios Capital più meno 6,43%, Ratti meno 3,88%, Grandi Viaggi meno 3,54%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore. Ci arriviamo ai veri e grandi evasori fiscali, quelli che insomma sottraggono al fisco, anche quelli che sottraggono al fisco 200 miliardi di imponibili l'anno, e non sono, ripeto, solo quelli oggetto degli studi di settore. Attenzione sull'evasione, a non diventare demagogici. Però prima vorrei rispondere a una domanda che ci è arrivata incessante in queste settimane. Ossia, quando la borsa cala del 4-5% e quando vediamo attacchi speculativi al debito italiano, chi vende? Beh, cerca di rispondere a questo quesito. È chiaro che qualcuno vende, perché se qualcuno compra, qualcuno vende. Questo, diciamo, andiamo sulla versione di Catalano. Però ha cercato di rispondere oggi a questo quesito Moria Longo, che è il nostro ospite del Sole 24 Ore. Moria, buonasera. Buonasera a tutti. Tu ti sei messo di buzzo buono a cercare di capire in queste settimane chi ha ridotto il peso Italia. Nel portafoglio di un investitore i vari paesi, così come i settori produttivi, hanno diversi pesi. Uno può essere sottopesato in gergo, magari sull'energia o sul paese X, e sovrapesato su un altro paese o su un altro settore, perché ritiene che questo cresca. Chi ha venduto debito italiano? Allora, quello che emerge, e banche italiane, sì, anche. Banche, ma io ho cercato anche sulle azioni, in borsa in generale. Quello che emerge è che la tanto decantata, la tanto speculazione di cui si parla sempre, in realtà è stata forse un aggravante, ma non certo la causa principale di questi crolli delle borse. Perché a vendere non sono stati tanto gli hedge fund, cioè che sono fondi gli speculativi per eccellenza, ma sono stati tutti gli altri investitori. Per esempio le banche internazionali, i fondi comuni, anche i fondi monetari europei, i fondi pensione, gli investitori, quelli che hanno un'ottica di lungo periodo e non quelli di breve periodo, mordi e fuggi. Al che dovremmo rettificare la frase: ah, l'Italia è la vittima di speculazione, la speculazione si abbatte sull'Italia. No, quando vende una banca istituzionale francese o canadese o svedese o svizzera, e quando vende il fondo pensione americano, non è speculazione, ragazzi, è panico. È panico su questi paesi, ma è asset allocation, si chiamerebbe, cioè spostamento e ricomposizione degli investimenti. Prego, Moria. Sì, no, infatti la speculazione sicuramente ha giocato, è stata un aggravante, ma non è stata sicuramente la causa principale. Per esempio, le banche europee di tutta Europa, eccetto le banche italiane, secondo i dati della banca della BRI, che si fermano purtroppo soltanto a marzo 2011, però danno uno spaccato abbastanza interessante, in un anno, dal marzo 2010 al marzo 2011, hanno ridotto l'esposizione sull'Italia del 14%, da 951 miliardi a 819 miliardi. E se tanto mi dà tanto, visto che poi i problemi sono iniziati a metà giugno, avevano fatto un altro 14, almeno un successivamente. La stessa cosa l'hanno fatta le banche americane, che hanno ridotto l'esposizione sull'Italia del 17%, ma anche banche giapponesi, per esempio, hanno ridotto del 12%, le banche indiane hanno ridotto l'esposizione del 24% sull'Italia. Insomma, c'è stato un po' uno scarico generale. La stessa cosa l'hanno fatto i fondi monetari europei. È uscita una statistica pochi giorni fa, elaborata da Fitch, che sostiene che i fondi monetari europei un anno fa erano esposti sull'Italia per il 4% del loro patrimonio totale, ora sono esposti sull'Italia pari per una percentuale dello 0,8%, quindi hanno notevolmente ridotto quasi l'80% in meno. Ecco, questo lo dico senza nessuna polemica, è quello che si chiama scetticismo verso un paese, oppure invece ottimismo verso un paese. Non quando c'è chi compra e vende nell'arco del minuto o del giorno o delle giornate, come avviene in queste sedute, ma quando i fondi decidono, dopo riunioni, di smobilizzare alcune posizioni sull'Italia e comprano qualcos'altro, cioè vendono Italia e compreranno qualcos'altro. Sì, quello che emerge dai mercati, questo, hanno comprato soprattutto titoli Stato tedeschi, tant'è vero che rendono lo 0, hanno comprato titoli Stato americani, sebbene gli Stati Uniti siano il paese più indebitato al mondo, paradossalmente i loro titoli Stato attirano come l'oro, hanno comprato oro per l'appunto, adesso comprano liquidità, stanno liquidi, tant'è vero che per esempio depositano i soldi presso la Banca Centrale Europea, cercano tutti di stare più liquidi possibile. Questo, che c'è stata una fuga dall'investimento, dal rischio, verso ciò che è meno rischioso in assoluto. Allora, da sempre in questo programma, che tra poco festeggia i 10 anni di vita in questa conduzione, non diamo consigli sugli investimenti, però non bisogna essere un genio della finanza per capire che se le grandi banche, i fondi internazionali stanno liquidi piuttosto che investire, ecco, questo è già un consiglio, chi vuol capire capisca. Se sei dentro la borsa io non venderei, ma se non ci sei dentro in questo periodo stanno un po' fuori. Poi magari da domani in poi facciamo un più 40% e mi massacrerete, tanto la nostra maga l'aveva previsto. E se così fosse, grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore. Grazie a voi. E adesso però parliamo anche di come si possono salvare le banche e il debito italiano. Una chiosa, ve l'avevo promessa, però sull'evasione fiscale, che sapete che è un tema d'elezione di questo programma, ce ne occupiamo tantissimo, e c'è qualcosa che secondo me è proprio educativo, diciamo così, leggere nel corso di un'inchiesta che riguarda un'inchiesta che ha visto sostanzialmente l'accusa di associazione a delinquere finalizzata ad aggirare le tasse per il consulente finanziario Mario Merello, al secolo più noto per essere il marito di Marcella Bella, e poi il commercialista Sirio Zanoni e l'avvocato notaio svizzero Fabrizio Pessina. Nel corso di questa inchiesta la magistratura ha sequestrato una lista di 500 nomi, tra i quali una quindicina finisce anche sotto inchiesta come evasori clienti di società create ad hoc in Austria, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, British Virgin Islands, Principato di Monaco e Stati Uniti. No, dico che è educativa, istruttiva, educativa forse no, ma sicuramente istruttiva, perché quando parliamo di evasione, no? E poi come il pubblico impiego se la prende col mondo del commercio, il mondo del commercio se la prende col lavoro in nero del pubblico impiego, stiamo parlando spesso di briciole, e sempre abbiamo detto che basterebbe all'Italia avere un'evasione simile a quella degli altri paesi europei, sarebbero già 100 miliardi in meno. Dico che sono briciole perché adesso vi leggo quanto dichiaravano alcuni dei personaggi finiti in questa inchiesta e quanto disponevano. Si tratta di industriali del nord-est, ma non solo, professionisti lombardi del nord-est. Allora, 3.600 euro di dichiarazione dei redditi, ma in realtà possedeva oltre dogana 7 milioni di euro. E poi 85.000 euro lordi dichiarati l'anno, e però ne aveva 17 milioni all'estero. 53.000 euro lordi dichiarati l'anno, ma ne aveva 39 di milioni fuori il confine. E poi tutti questi non pagheranno, non avrebbero comunque pagato la tassa di solidarietà, perché sono tutti sotto i 90.000 euro lordi, pensate. E poi c'erano i più onesti sono quelli che dichiaravano 158.000 euro lordi l'anno, ma ne avevano 26 di milioni all'estero. E il premio dell'onestà va a un industriale che dichiarava 224.000 euro e ne aveva 12 milioni all'estero, rispetto agli altri, diciamo, un contribuente onesto. Traffico! minuti, ultima parte di Focus Economia. Non posso adesso stare sull'evasione fiscale. Quello che vogliamo dire è che delle volte gli studi di settore hanno avuto anche un accanimento, una così perseveranza fortissima, e vai a beccare un po' di evasione di categorie che però insomma tendono a non essere miliardari. Giustamente molti ascoltatori dicono: ma insomma la Guardia di Finanza dov'è? Perché chi, voglio dire, dichiara 53.000 euro l'anno lordi, ne ha 40 milioni fuori, di solito come tenore di vita qualcosa si deve vedere, ecco perché il redditometro avrebbe un senso. Comunque, cosa fare delle banche e come salvare le banche europee, se ne occupa oggi l'economista Donato Masciandaro sul Sole 24 Ore, con un'ipotesi che ancora non avevamo letto, l'ipotesi di creare una bad bank, cioè una banca dove mettere, diciamo, i problemi, le passività, per non aiutare tutte le banche in maniera indiscriminata. Beh, abbiamo anche un comico che ci ascolta, perché scrive un ascoltatore: ma cosa c'entra il reddito annuo con i capitali posseduti? Non male. Non male, perché uno giustamente può avere 53.000 euro lordi o addirittura 3.600 euro lordi l'anno e avere 7 milioni o 39 milioni di euro in un deposito. È eredità di famiglia, no? Professor Donato Masciandaro, buonasera. Buonasera a lei. Sull'evasione Marrabbio. Allora, mi dica una cosa, perché qua oggi i mercati festeggiano, l'accordo con la Grecia si troverà, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto la Grecia va salvata. Però iniziano ad esserci perplessità da parte dei tedeschi e dei francesi sul fondo salva stati, perché se dovesse aumentare il suo livello di dotazione, 440 miliardi attualmente, si è ipotizzato fino a 3.000 miliardi, potrebbe, e lo ha dichiarato poco fa l'agenzia di rating Standard & Poor's, potrebbe questo pesare sul debito di Francia e Germania e quindi abbassare il loro voto. Lei oggi propone di fare un po' come con l'Italia, se mi passa il paragone, creare una bad bank dove ci sono i problemi e invece una good bank. Me la spiega? Molto semplicemente, noi dobbiamo evitare che si incrocino il problema dei debiti sovrani con il problema dei debiti delle banche. È un caso particolare di debiti gemelli. Allora, quello che sta accadendo, tutta l'incertezza che c'è e che continuerà se continua questa confusione, è che i due debiti e l'incertezza fanno da moltiplicatore uno dell'altro. Allora, in questi casi occorre separare i due problemi e la cosa più semplice è prendere i titoli del debito dei tre paesi che l'Unione riterrà a rischio, e in questo momento a rischio possono essere ritenuti la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda, prendere i titoli del debito e metterli in un veicolo. Questa rappresenterà il lato dell'attivo del veicolo. Come si finanzia questo veicolo? Beh, questo veicolo si può finanziare in tre modi diversi e qui dipende molto dall'equilibrio in termini politici. Le modalità sono essenzialmente tre. Finanziamento da parte degli Stati membri dell'Unione in ragione della pulizia che è stata fatta nei diversi bilanci bancari, ovvero emissione di titoli euro e i cosiddetti eurobond. Terzo, rifinanziamento per esigenze di liquidità da parte della Banca Centrale Europea. Ultimo punto, in questa maniera sparisce tutta l'incertezza sui bilanci bancari. Perché quello che è successo nei bilanci bancari europei è che c'erano dei titoli che erano ritenuti a rischio zero, titoli sovrani, che per colpa dell'Unione Europea, che non ha sorvegliato, si sono dimostrati essere titoli a rischio default. Allora noi separiamo i due problemi e in questa maniera abbassiamo l'incertezza. Sì, perché in questo momento le banche tra di loro non si fidano e preferiscono depositare i soldi alla banca centrale piuttosto che prestarli ad altre banche, perché non è più chiaro chi ha e quante obbligazioni irlandesi, portoghesi, se abbiamo visto anche quelle italiane venire poco amate, proprio perché a suo tempo erano date come obbligazioni di garanzia, diciamo, uno Stato non può fallire, soprattutto nell'euro, così si diceva, vedremo. Posso aggiungere un altro punto? L'incertezza non è solo legata a questa mancanza di informazione che lei sottolinea, ipotizziamo anche di conoscere esattamente chi ha i titoli dei tre debiti che abbiamo citati. Quello che non conosciamo per definizione è tutta la piramide dei titoli strutturati e derivati che hanno come sottostante questi titoli. Quello che il mercato teme non è la Grecia. La Grecia sono noccioline e non è il debito greco che sono noccioline rispetto al totale degli ammontari di debiti pubblici, dei bilanci bancari, eccetera, eccetera. È che non sappiamo se c'è un default di quel sottostante, quale è il moltiplicatore di incertezza. Quindi per evitare ulteriori confusioni occorre separare i problemi. Posso solo segnalare un punto? Non c'è niente di originale, semplicemente basta applicare cose che noi italiani abbiamo visto nell'esperienza passata, lei ha citato l'Italia, ovviamente il Banco di Napoli. Per dare certezza sui bilanci di una banca bisogna pulirne gli attivi e rendere chiaro qual è il problema. In questo momento il problema è un rischio default che deve essere affrontato dall'Unione Europea. Allora, in un minuto scarso, professor Mascendaro, lei, vista la reazione di borsa di oggi, più 4,90%, benissimo le banche, anche in Francia più 12% i vari istituti, lei crede che la cosa sia finita o il problema ce l'abbiamo ancora tutto sul groppone? Uno o due? Sperando di sbagliarmi, non è finita. Non è finita però perché per i mercati oramai l'unico giorno triste è la domenica, quando non possono lavorare. Sì, però Vegas, oggi ricordava che le vendite allo scoperto sono servite un po', presidente della Consob Vegas, a bloccare. Io temo che il problema ormai sia che c'è talmente tanta liquidità che da qualche parte deve andare a comprare. Che i mercati sono affamati di news, che siano good e che siano bad. L'importante è anticipare un secondo prima il gregge, e questo significa che nei prossimi giorni, ripeto sperando di sbagliare, quando inizieremo a capire che questi annunci di Washington al momento è fumo, ci sarà un'altra news, cattiva o buona, che farà muovere il mercato in un'altra direzione. Quindi non è finita niente. Non le posso dare il gufo perché siamo in chiusura del programma e poi oggi abbiamo avuto il gallo due volte per questa borsa, ma grazie all'economista professor Donato Masciandaro non posso nemmeno rispondere sull'evasione fiscale. I nomi non li abbiamo e quindi non li potevo fare, se no li avrei fatti. Qual è il problema? Un ultimo aggiornamento, anzi due cose. Domani su Sole 24 Ore c'è la 12ª puntata delle guide alla manovra, il tema è il lavoro, le nuove norme sugli, anche i reati in tema di lavoro. E poi qualche istante fa il governo è stato battuto alla Camera su un emendamento del PD e praticamente sopprime dal testo l'istituzione dell'ordine dei giornalisti, che invece il governo voleva istituire. Noi ci risentiamo domani. Dentisti, giornalisti era forse un desiderata mio, dentisti. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.